Questa mattina Lega Ambiente VS ha presentato un dossier che abbiamo presentato alle commissioni parlamentari sul ciclo dei rifiuti, sulla criminalità organizzata e alla Procura Nazionale Antimafia, un dossier che ricostruisce i fatti degli ultimi 10-15 anni che riguardano i traffici illeciti di rifiuti via mare, cioè quelli compiuti attraverso affondamenti dolosi di navi, le cosiddette navi dei veleni, navi a perdere, e si valuta che solo nel mare territoriale italiano ci siano stati forse probabilmente una cinquantina di questi casi di navi. Siamo partiti da un caso emblematico, che è quello della Jolly Rosso, una nave che si arenò sulle spiagge calabresi nel comune di Amantea nel 90, e ci sono ancora purtroppo dopo 14 anni e 3 procure che hanno indagato su questo affondamento, ci sono ancora le indagini in corso. Il WWF ha denunciato insieme a Legambiente ricostruendo anche la mappa di questi affondamenti misteriosi, sappiamo del caso anche della nave affondata in Turchia, e sappiamo sempre da documenti ufficiali del Parlamento che ci sono sicuramente delle connessioni con alcuni paesi africani, anche con la Somalia, tant'è che noi abbiamo mandato anche il nostro dossier alla commissione parlamentare che indaga sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, perché sicuramente ci sono alcuni paesi africani, a cominciare dalla Somalia, che sono coinvolti in questi traffici illeciti. L'Italia è sicuramente un punto di snodo, sia come origine di questi rifiuti, purtroppo molti dei nostri rifiuti industriali probabilmente sono finiti in queste navi a perdere, e anche come paese di transito, dove si trova anche un terreno facile, e purtroppo la criminalità organizzata è pronta chiaramente a lucrare su questi traffici, anche perché in Italia non abbiamo un sistema penale che garantisce dei mezzi adeguati per poter perseguire questi reati così gravi che riguardano la salute di tutti noi. In sintesi, nel nostro dossier abbiamo chiesto 10 azioni concrete al Parlamento e al Governo, che significano anzitutto mettere insieme tutti i dati che già sono conosciuti anche attraverso le varie indagini che sono state svolte dalla magistratura, soprattutto dalla magistratura calabrese, e finalmente prendere dei provvedimenti concreti, ovvero cominciare anzitutto ad andare a individuare i delitti di queste navi, capire dove sono, laddove sia possibile intanto mettere almeno in sicurezza le aree e bonificarle. Abbiamo chiesto, infatti, tra l'altro inizierà a breve la discussione della legge finanziaria, abbiamo quindi chiesto che ci siano dei fondi specifici finanziati dallo Stato per queste opere di bonifica. Si tratta di moltissimi soldi, ma è necessario, perché se non si va a vedere materialmente dove sono questi relitti e che cosa contengono, non se ne verrà mai a capo.